Oggi, 30 anni fa, Aldo Moro. 27 marzo 1978. È una pasquetta amara per Aldo Moro, ancora rinchiuso nell'appartamento prigione di Via Montalcini a Roma. E sono ore di attesa per i suoi familiari, che vedono con preoccupazione ciò che i terroristi scrivono nel loro secondo comunicato. Gli inquirenti proseguono i rilievi in via Fane e si fanno un'idea ormai precisa sui preparativi della strage. Qualcosa di non diverso da quello successivamente raccontato in un'aula di un tribunale da Valerio Morucci, uno del comando brigatista poi dissociato. L'organizzazione di questa azione era pronta per il 16 in mattina come uno dei giorni probabili in cui sarebbe potuto o sarebbe anche potuto non passare l'onorevole Moro, perché non c'era certezza, perché avrebbe anche potuto fare un'altra strada. Era stato verificato che passava lì per alcuni giorni, ma non era stato verificato che passasse lì sempre. Non c'era stata una verifica di mesi su questi suoi passaggi in via Fani. Quindi il 16 marzo era il primo giorno in cui si andava in via Fani per compiere l'azione, credendo che, sperando, dal punto di vista operativo ovviamente, che passasse di lì quella mattina, altrimenti si sarebbe dovuti tornare il giorno dopo, poi il giorno dopo, fino a che sarebbe stato possibile, e non si sarebbe ritenuto invece che la presenza di tutte queste persone su quel luogo per più giorni avrebbe comportato sicuramente il rischio di un allarme. Daniele Biacchessi, GR24, Il Sole 24 Ore.